essere e benessere. Di Nicoletta Carbone. Ti prego, dai una soddisfazione a Marchetto di Secrate. Fammola, c'è la mano, caccia la mano. Ti posso leggere passato, presente, futuro, vita, morte, miracoli, pace, panzeri, pilota, tutto, caccia la mano, dai. Tieni. Ammazzati. Oh, perché mano che c'hai? Tu sei un tipo tosto, legnoso. Cioè, duro e legnoso a contempo. Uno sguardo, devo dire, vagamente fubino e molto, diciamo, di mogano. Buongiorno da Nicoletta, lasciamo ai chiromanti la lettura delle mani e andiamo a leggere invece i nostri piedi. Non certo per sapere che cosa ci riserva il domani, ma per capire quanto sono importanti per il nostro benessere generale. Qui in studio con me Marco Mazzotta, riflessologo plantare, terapista della Fondazione Apostolo. Bentornato, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori che ci seguono con passione. Signor Mazzotta, per un riflessologo, poi la chiamerò Marco. Assolutamente sì, sono allora Marco. Per un riflessologo i piedi sono una miniera di informazione, una mappa, possiamo definirla così, in cui su proprio tutto il piede riprodotto c'è la mappa, tutto il nostro corpicino, i nostri organi, tutti i nostri organi. È un ricarico energetico che parte dal piede sinistro e finisce sul piede destro, andando a mettere il nastro isolante dove si segnano i nostri blocchi, dove una persona lamenta un problema, disturbo. Un disturbo, e quindi automaticamente si va a massaggiare quella zona. Poi chiaramente se ci sono dei problemi meccanici il piede segnala, io a quel punto delego la persona al medico, perché io non sono medico, quindi il medico deve prendere e verificare se quel blocco che abbiamo visto a livello di piedi è da verificare, certo. Quindi lo verifica la medicina tradizionale. Però perché se noi volessimo guardare il nostro piede, sì, partendo dalle dita, sì, le dita, testa, le dita parte corrispondono alta alla testa e quindi alla parte mentale del nostro corpo, sì. La parte del metatarso è la parte emozionale, infatti lì abbiamo lo stomaco, il fegato, l'intestino, e quindi è la parte emozionale, sì, dove raggruppiamo le emozioni. Un po' come la medicina cinese, gli organi hanno una funzione anche perché nasce come medicina cinese, è stata scoperta dagli egiziani, ma poi è stata esportata in Cina, è arrivata in America nel 1800 e in Italia e in Europa nel 1860, quindi parliamo di una cosa vecchia come Noè, come dico, sì, io. E la parte finale invece è sul piano istintivo, la parte del tallone, la parte istintiva, la parte anche che corrisponde agli organi genitali, quindi la parte anche sessuale. Infatti sui piedi dei bambini il tallone non è mai ben definito perché gli organi sessuali non sono ancora ben messi a fuoco. Allora, adesso rivestiamoci. Perché ho bisogno che voi vi osserviate la suola delle vostre scarpe. E intanto che voi la osservate, io saluto la dottoressa Laura Bertelè. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, ma benvenuta. A lei e a tutti gli ascoltatori. Ortopedica, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa e direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo, autrice di Ascolta e guarisci il tuo corpo, edito da Mondadori, un libro di cui abbiamo parlato spesso, su cui torniamo, che molti di voi hanno letto, di cui mi hanno scritto. Insomma, sono molto contenta di avere la dottoressa Bertelè ospite. Dottoressa, i piedi fanno un grande lavoro, non solo permettono alle persone di stare in piedi, come si dice, ma anche di muoversi, di camminare, di correre, ma i piedi sentono, pompano, reggono, muovono, trasmettono anche emozioni a tutto il resto del corpo, nel bene direi anche nel male, perché proviamo a pensare al dolore ai piedi che ci fa venire il mal di testa e pensiamo invece a quella sensazione di leggerezza che ci regalano, che ne so, un pediluvio o un massaggio ai piedi. Dottoressa Bertelè. Sì, dobbiamo considerare i piedi un po' come le nostre radici. Sì. Sono la possibilità di radicarci alla terra, di ricevere anche l'energia della terra. È per quello che è anche molto importante camminare a piedi nudi. Camminare a piedi nudi in casa, camminare tanto sulla sabbia, che stimola particolarmente la pianta del piede, proprio perché ci dà questa possibilità di scaricare i nostri pesi fisici, emotivi, a terra. È la nostra messa a terra sotto tutti i punti di vista. E la suola delle scarpe, a proposito di quello che diceva prima, ci rivela come appoggiamo a piede, se appoggiamo sulla parte più esterna, se appoggiamo più a destra che a sinistra. L'appoggio dovrebbe essere molto armonioso, infatti se guardiamo la nostra impronta sulla sabbia ci dice come appoggiamo il piede. È una cosa che possiamo fare tutti e ci rendiamo conto com'è la distribuzione del carico fra destra e sinistra, fra avanti e dietro. Questo ci dice come stiamo in piedi, Cioè l'appoggio a terra ci dice come sono ruotate le nostre ginocchia, come è messo la posizione del bacino, perché l'appoggio a terra dipende dalla rotazione delle ginocchia, appunto, dalla posizione delle anche, e a loro volta la posizione delle anche dipende dalla schiena, dalla posizione della regione lombare e del collo. Alla fine si arriva alla testa, cioè dipende da come stiamo in piedi globalmente. Ed è proprio da come stiamo in piedi che la dottoressa Bertelè e le persone che si occupano di postura possono aiutarci a riassettarci e a capire e di orientarci verso un equilibrio. Quindi guardatevi la suola delle vostre scarpe, pensate anche al modo in cui camminate, provate a farvi piede. Provate a sentire i messaggi che i vostri piedi vi danno. 800 24 0024. Non ancheggi in quel modo. Io non ancheggio mai. Qualunque cosa faccia non va. Adesso ascolta, devi tenere i piedi in fuori e appoggiare prima i talloni. Spavalda. Il modo in cui camminiamo parla di noi ed è una sorta di specchio che riflette all'osservatore attento, ma anche a chi è un po' disattento come me, un po' la nostra storia, le nostre emozioni, i nostri pensieri. Dottoressa Bertelè, il modo in cui camminiamo, appoggiamo i nostri piedi, a lei fornisce informazioni molto importanti. Ad esempio, pensiamo a una persona che cammina molto spostata all'indietro, con il peso spostato all'indietro sui calcagni, sì, come se fosse tirata indietro, ed è tirata indietro dai propri muscoli, ma anche dalle proprie emozioni, dal passato, dai vissuti che ha alle spalle. Oppure una persona invece che china in avanti, quindi con la testa troppo china in avanti e appoggia troppo sulla pianta anteriore, sulla parte anteriore del piede, deformando il piede. Anche questa è una persona che è tirata avanti dalla testa. Noi dovremmo avere il baricentro, che il nostro baricentro si colloca poco sopra l'ombelico e poco sotto l'ombelico si colloca il nostro centro energetico. Ecco, dovremmo avere il baricentro ben piazzato al centro dei nostri piedi, cioè un po' al davanti dei calcagni. Se è spostato troppo indietro siamo tirati indietro, se è troppo in avanti vuol dire che pendiamo in avanti e la nostra muscolatura posteriore ne risente. Ecco, un esercizio, dato che spesso noi non ci rendiamo conto della nostra camminata, un esercizio che potremmo fare insieme ad una persona con cui siamo molto in confidenza è di chiedere proprio di descrivere la nostra camminata, dottoressa Bertelè. Esattamente, sì, in modo che qualcuno ci faccia da specchio e ci dica come cammino, se ancheggia, appunto, come diceva prima, sì, quel spot che avete passato, se una persona ancheggia, se è abbastanza morbida, se dà un'impressione di fluidità, di elasticità, di armonia, e no, oppure un'impressione di rigidità. Se la testa è troppo in avanti vuol dire che è la ragione che avanza prima di tutto, se la pancia è troppo in avanti vuol dire che è la pancia, cioè diciamo gli istinti, anche il piacere del mangiare, del bere, è tutto, il corpo ci rivela in ogni suo modo di muoversi e di stare quello che siamo. E noi torniamo a parlare dei nostri piedi, perché partiamo proprio da questo appoggio, dalle radici. Marco, D'accordo perfettamente che le radici sono i nostri piedi che ci danno l'energia, quindi energeticamente andiamo a ricaricare quello dove siamo scarichi, quindi facendo prima un trattamento con un professionista, e quindi in questo caso, siccome io lavoro con la dottoressa Bertelè, se uno fa tipo un massaggio prima con il massaggio Bertelè-Mézières e dopo successivamente un trattamento di riflessologia plantare, essendo una terapia collaterale e straordinaria, insieme diamo veramente qualcosa in più alle persone che vengono e si mettono nelle nostre mani, soprattutto nelle mani dei dottori, perché la medicina tradizionale è la medicina da seguire in primis. E anche io voglio darvi qualcosa in più, un libro. Oggi abbiamo scelto L'arte del camminare, consigli per partire con il piede giusto, ma ho bisogno naturalmente che voi rispondiate ad una nostra domanda. Devo dire che è una sorta di test di fedeltà, perché ne abbiamo già parlato altre volte, quindi chi ci segue da tempo e chi sta attento è avvantaggiato. Ditemi come si chiamano le dita dei piedi. 800 24 00 24. Oggi assegniamo i libri a chi chiama il nostro numero verde, per cui se mi mandate il messaggio io ne sono contenta, ma entrano praticamente a far parte di questa sorta di competizione le persone che chiamano il nostro numero verde. Quindi ricordate come si chiamano le dita dei piedi. Intanto in linea abbiamo Michele dalla provincia di Napoli che ci chiama all'8 800 24 00 24. Buongiorno Michele. Buongiorno. Allora, io volevo fare un formulario, una domanda alla dottoressa. Si dice, cioè, lei diceva prima che i bambini devono camminare scalzi anche in casa, però l'ortopedico mi diceva che insomma i bambini sarebbe preferibile in casa che avessero delle pantofole, per lo più che non incorrono nello scivolare, perché sì, potrebbero pregiudicare quella che poi può essere una puntura. Insomma, ci sono anche quelle calzine, dottoressa Bertele, antiscivolo. Le calze antiscivolo oppure le pantofoline Lanacotta, che sono molto naturali, calde, proprio, anche per non far prendere freddo ai piedi. Però l'importante è anche scegliere in base al pavimento. Se un conto, ad esempio, se c'è un parquet, sì, un conto se c'è un pavimento di piastrelle che è molto più freddo, o di marmo. Quindi è molto importante non far prendere freddo ai piedi. Però lasciare che i bambini, esatto, camminino a piedi nudi o a piede libero, come si dice. Dottoressa Bertele, va bene, è un consiglio che possiamo seguire anche noi adulti, vero? Assolutamente, io lo consiglio a tutti i miei pazienti di camminare in casa con pantofole molto morbide o appunto calze antiscivolo anche per adulti. Dobbiamo scaricare le nostre tensioni verso terra, se no rimangono all'interno del corpo. È veramente come la possibilità di metterci a terra dal punto di vista elettrico. Possiamo scaricare le tensioni ed anche proprio per questo è molto importante massaggiare i piedi, farseli massaggiare. Questo mi piace. Marco, e Marco ci dà qualche indicazione. È difficile, sì, l'automassaggio, è difficile, però l'automassaggio, noi non vogliamo però diventare dei terapeuti, vogliamo solamente, no, fare un passetto in più verso il benessere, fare, sì, qualcosa che ci piace e ci fa stare bene. Allora possiamo massaggiarci le dita dei piedi, perché sulle dita corrisponde alla testa, quindi massaggiando la luce possiamo rilassare la nostra testa dopo una giornata pesante, rilassare la nostra testa. La parte centrale sotto le dita corrisponde ai polmoni, quindi se uno ha un momento di tosse o degli attacchi di catarro, chiamiamolo, sì, così, può massaggiarsi la parte cicciotta sotto le dita, sì, che corrisponde, perché sono tutti gli organi riflessi, certo, sulla mappa lì. E quindi si parte, quando si fa un massaggio riflessogeno, si parte dal sistema urinario, poi andiamo sul sistema nervoso, poi andiamo a fare il linfatico, dopodiché respiratorio, muscolare, digerente, circolatorio, sì, genitale, insomma, quindi andiamo a toccarli tutti, le ghiandole endocrine per vedere se funzionano tutte bene, e poi si richiude con l'urinario. Dopodiché, avendo rimesso insieme e avendo dato un'energia totale dal piede, appunto, e partiamo appunto dall'apparato urinario, perché il bere, sì, è importantissimo. Più si beve, più si eliminano tossine. Eliminando tossine si sta anche meglio, e quindi il corpo è la nostra benzina, sì, è il nostro bere, quindi per noi è come se fossimo una macchina. Il corpo deve bere, deve stare in piedi e deve avere e una noi certa possiamo energia. L'automassaggio che consigliamo oggi è quello dell'alluce, tra l'altro, quindi già il primo dito è molto semplice, lo sappiamo. Mi servono i nomi delle altre quattro. Intanto vado da Angelo che ci chiama dalla provincia di Monza. 800 24 00 24. Voilà, Angelo, buongiorno. Fuori piedi, fuori piedi. Niente, allora, quando ci ho fatto caso che le scarpe, quando tutti i tipi di scarpe che metto, quando insomma sono sempre consumate nella parte posteriore e destra, sia destra che sinistra, cioè la parte posteriore esterna, sì, sia la scarpa destra che sinistra, ma qualsiasi tipo di scarpa, ma da tanto tempo. Niente, volevo appunto chiedere perché, ecco. Dottoressa Bertele, sì, allora, parte esterna, piede destro, scarpa sinistra. Quando le scarpe si consumano nel tacco, nella parte esterna, vuol dire che c'è molto accorciata e contratta la muscolatura del polpaccio. Quello che si chiama tricipite tessurale, che proprio appunto porta al calcagno, si dice in varismo, nel senso che l'appoggio poi finisce sulla parte esterna del calcagno e c'è maggior consumo delle scarpe. In genere è accompagnato sempre una rigidità anche della schiena, Però è già appunto importante, un indizio importante in questo senso. Ma per rallentare, per far lavorare bene questa muscolatura, che cosa suggerisce, dottoressa? Ma intanto sempre camminare a piedi nudi, poi ci sono degli esercizi di stretching, poi il nostro lavoro. Tra l'altro, a proposito di quello che diceva prima Marco, quando il lavoro del piede è stato fatto bene, c'è una zona specifica nel piede che Marco conosce bene, che è quella della colonna vertebrale, anche tutta la muscolatura della schiena si rilassa e noi lavoriamo meglio. Quindi c'è l'abbinamento di fare un lavoro sulla muscolatura globale della schiena e di tutto il corpo e quella ed un lavoro specifico sul piede. Questo serve proprio per rimettere la posizione del piede in un corretto appoggio, più distribuito, non così localizzato sulla parte esterna del piede. Ecco perché è importante, tanti, ne parleremo nel corso della trasmissione, tanti dolori che avvertiamo anche a livello delle ginocchia, delle anche, della esatto. schiena, noi diciamo o mal di schiena, ma spesso queste sono, è l'urlo del piede che arriva fino lì, perché sono problemi che derivano proprio da un cattivo, da un appoggio scorretto, chiamiamolo così. Marco. E quindi sul piede la zona riflessa corrisponde magari, però non sempre, quindi è per questo importante verificarlo, corrisponde all'organo riflesso. Lavorare sulla schiena, che è sul dorso del piede e non sulla pianta, si lavora molto bene per rilassare, appunto come diceva Laura, la colonna vertebrale. Infatti io tramite la fondazione abbiamo la possibilità di lavorare con tanti ragazzi disabili, e che cosa possiamo dare? Io specialmente posso dare come supporto solo un aiuto per rilassare a questi ragazzi che magari hanno una sono tetraspastici, quindi hanno una colonna veramente disastrata di cui si occupa Laura. Io posso solo dare un supporto per rilassare, certo, la colonna vertebrale, andare a toccare poi la parte riflessa dell'intestino per far aiutare questi ragazzi a scaricare a livello di intestino e tranquillizzare il sistema nervoso. La sinergia tra le due. Esatto, io sono di supporto, sono il supporter a una medicina straordinaria che dà dei risultati meravigliosi. Dottoressa Bertelè, a proposito di appoggio, ho trovato rubato dal suo libro Ascolta e guarisci il tuo corpo, nel capitolo intitolato Ogni mattina di Buongiorno al tuo corpo, un esercizio che voglio suggerire anche ai nostri ascoltatori. E così prego Carmelo Lauricella, così lo ringrazio che in regia la parte tecnica, di mandarcelo e poi noi ritorniamo subito dopo insieme, perché tra poco abbiamo i mercati. Unisci i piedi e fletti un po' di più le ginocchia. Chinandoti in avanti, appoggia le mani sulle ginocchia. Adesso porta l'attenzione all'appoggio dei piedi. Com'è distribuito il peso? Inspira. Espirando, disegna con le ginocchia quattro cerchi paralleli al pavimento, ruotando in senso antiorario. Torna al centro. Inspira. Espirando, disegna quattro cerchi in senso orario. Verifica con cura come senti ora l'appoggio dei piedi. Il peso è distribuito in modo più uniforme su tutta la pianta? E come senti le caviglie e le ginocchia? Se riuscite fatelo e poi raccontateci all'800 24 00 24, ma naturalmente lo mettiamo anche sul nostro sito questo esercizio, perché desidero, mi farebbe piacere che ciascuno di noi oggi provasse a vedere come appoggia i piedi e poi approfittare dei consigli della dottoressa Bertelè e di Marco Mazzotta per rimetterci un po' in equilibrio, perché il benessere è equilibrio, è armonia. Essere e benessere. Sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, batto il piede in giù, giro mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle ad una. Ma è sempre colpa del sassolino nella scarpa? Dove batte quel sassolino? In che punto del piede avvertiamo dolore? Marco Mazzotti e la dottoressa Bertelè potrebbero darci sicuramente delle risposte differenti, ma una cosa è certa, come abbiamo anticipato, quello che capita giù, in basso, ai nostri piedi, ha delle ripercussioni che corrono, camminano lungo tutto il nostro corpo, dalla caviglia, salgono al ginocchio, alle anche, alla schiena. A volte i nostri piedi non ce la raccontano giusta, sono poco diretti, parlano per bocca, diciamo, di altre parti del corpo. Ecco, il mal di schiena, ecco il male all'anca, il male al ginocchio, 800 24 00 24. Ma a proposito di sassolino nella scarpa, dottoressa Bertelè, lei ha sottolineato quanto sia importante camminare a piedi nudi, un consiglio che lei ha dato valido per i bambini e anche per chi non è più bambino. Per quanto riguarda la scarpa, come facciamo a scegliere quella che va bene per noi? Allora, intanto per sceglierla basta vedere, appoggiare il piede a terra e vedere qual è la scarpa più comoda, perché la scelta fondamentale dovrebbe essere quella della comodità, cioè quella, la scarpa che ci permette di avere il piede più rilassato, più aperto, meno costretto possibile. Ecco, diciamo che l'ideale sarebbero quelle che adesso si chiamano cinque dita, quello, anche se so che per il gusto estetico italiano è molto difficile da accettare, sì. Però perlomeno che siano con una punta rotonda, che siano comode, che siano pensi elastiche. Che lei mi dice questa cosa, io adoro le scarpe con i tacchi, dottoressa Bertelè. Ecco, lo le scarpe so, con i tacchi di Laura. Saranno forse estetiche, cioè dal punto di vista di un certo tipo di femminilità, però ma rovinano la schiena, cioè rovinano la schiena, i piedi e la schiena, quindi questo bisogna accettarlo. Poi se uno mette sull'altare della bellezza della seduzione, no, però è una scelta. E invece per i bambini, per i nostri bambini, per i bambini è la stessa cosa, che siano più comode possibile, elastiche, flessibili, molto morbide, senza un plantare rigido all'interno, perché deve essere appunto corrispondente come se il bambino camminasse a terra, possibilmente con un plantarino di cuoio per non farlo sudare, per non far sudare i piedini, questo vale per tutti, ma che siano molto naturali. Bambini che camminano, il piede piatto nei bambini è fisiologico, è normale, ma fino a che età? Fino a due anni. Ecco, ne approfitto per dire una cosa importante, nel senso che il piede piatto o pronato deriva da una rotazione interna del ginocchio. Sì. Come diceva lei, cioè una patologia del piede, ad esempio un trauma, si riflette su tutta la schiena fino alla testa. Così viceversa, un problema di piede pronato è dovuto a una rotazione interna delle ginocchia, che a sua volta è dovuta a un collo del femore magari un pochino troppo aperto, si dice con un angolo ottuso, un bacino troppo in avanti, una pancia in fuori, quindi un'iperlordosi lombare. Ecco, è un riflesso di quello che c'è sopra, e un piede pronato dà poi negli anni un alluce valgo, che è sempre una conseguenza. Certo, siamo tutti, tutto è collegato. Assolutamente. Dottoressa Bertelè, quindi per rassicurare le mamme che mi scrivono, bambini che a proposito di camminata camminano con le punte verso l'interno o camminano in punta di piedi. Ecco, quello del camminare in punta di piedi è un atteggiamento che tra l'altro secondo me non a caso si sta aumentando come frequenza nei bambini, riflette sempre un atteggiamento anche rispetto alla vita, nel senso che sono bambini in genere molto sensibili, che tendono a non appoggiare per terra, che tendono a essere un po' fra le nuvole, che rifiutano un po' il contatto con la materia, sono bambini tendenzialmente spirituali. Sono dei bambini molto intelligenti di solito. Ecco, e poi si traduce in un accorciamento della muscolatura. Noi quindi lavoriamo sull'aspetto muscolare, ma tenendo conto che è un atteggiamento del bambino verso la vita anche. Marco, voleva intervenire? Volevo confermare quello che ha detto prima Laura, nel senso che dal piede partono altre cose fino ad arrivare alla testa. Io proprio ho vissuto una mia esperienza personale, che avevo dei dolori fortissimi al trigemino, la nevralgia del trigemino, che è un nervo che ha tre branchie e a livello facciale e arcata superiore temporomandibolare, arcata uno inferiore, dolori più allucinanti, sì. Nell'Ottocento lo chiamavano il nervo suicida, la gente si buttava dalla finestra. Io avevo una caviglia rotta perché mi ero fatto male, non mi ero curato bene, quindi il prendersi cura di sé, curarsi bene dalla caviglia, mi è partita questa cosa fino alla testa, come ha detto prima Laura. Quindi sono proprio l'esempio vivente che purtroppo di ascolta e guarisci il tuo corpo. Noi andiamo ad ascoltare alcuni ascoltatori. Abbiamo ad esempio Gaetano che ci chiama da Foggia. Buongiorno Gaetano. Buongiorno Nicoletta, ciao. Buongiorno. Ecco. Io avevo chiamato per rispondere al quiz I nomi delle dita dei piedi. E niente, io ho detto alluce, e poi secondo dito, terzo dito, quarto dito, quinto dito. Beh, questa sì, uno può, non, se io dico alla dottoressa Bertelè mi fa male il terzo dito del piede, lei sicuramente lo capisce, anche Marco. Però noi volevamo fare una cosa un pochino più sfiziosina. In realtà i nomi queste dita ce l'hanno, e vi dico che assomigliano, a sentirli così, un po' a quelle dei sette nani. Mi dispiace Gaetano, ma grazie per avermi chiamato. Vado da Federico. Federico che ci chiama da Vicenza. Buongiorno Federico. Buongiorno a tutti i tuoi ospiti. Grazie. Niente, una domanda. Io ho il piede, tendo a consumare la scarpa sempre sulla parte esterna. Sì, del piede. Sì, come l'altro ascoltatore. E anche un, pensi, Federico che mi scrive, un calzolaio, mi dice che tutti i suoi clienti la consumano proprio la parte esterna della scarpa. Si vede che è un problema questo dei muscoli del polpaccio un po' corti. Poi la dottoressa mia, ecco, è un abbiamo tutti, siamo di polpaccio corto. Ecco, allora Federico, anche lei c'ha i polpacci corti. La mia domanda era, mi sono acquistato le scarpe, quelle nuove, quelle con la suola un po' arcuata, con la molto morbida. Sì. E fanno bene, sono indicate? Per allungare il polpaccio o per far star bene i piedi? Ma con tutte queste scarpe io mi sento già un beneficio sulle ginocchia. Ecco, volevo sapere se questo... Se era una cosa provata oppure... Sì. No, francamente secondo me no. Nel senso che è una grande moda. Ma in realtà le scarpe, appunto queste che hanno la suola arcuata, impediscono il movimento fisiologico sia dei muscoli intrinseci del piede, quindi del piede in sé, sia del polpaccio, e tra l'altro danno un movimento di flesso, cioè di lordosi e cifosi alternata a livello lombare e cervicale, che non va bene, quindi non sono da usare. Quindi lei non le consiglierebbe? No, ecco. A chi ha problemi di schiena no, senz'altro. A chi ha problemi di schiena non le consiglierebbe. Vediamo, magari il nostro ascoltatore si trova bene. Antonietta ci chiama da Matera, buongiorno. Buongiorno, volevo rispondere al quiz sul nome delle dita dei piedi. Ah sì, ricordano un po' quelle dei sette nani e si chiamano? Più o meno sì. Allora, alluce, illice, trillice, pondolo e minolo. Allora, Carmelo, in realtà c'è una piccola, Carmelo era entusiasta perché lui non le sapeva e allora ha appena sentito che assomigliavano, in realtà l'ultimo si chiamerebbe anche Mellino, ma ecco, l'entusiasmo di Antonietta, da Antonietta riceverà a casa, è stata brava, riceverà a casa l'arte del camminare, consigli per partire col piede giusto. Grazie Antonietta. Per una assidua ascoltatrice. Vede, allora per questo. La vostra trasmissione. Allora, vi voglio però fare un'altra domanda che per voi. La passione per i piedi può estremizzarsi in una particolare forma di feticismo. Come si chiama e da che cosa deriva questa parola? Essere e benessere. Piccoli, grandi, piatti, nervosi, paffuti, ossuti, magri. Dottoressa Bertelè, vogliamo guardarli questi piedi? Ci sono piedi molto affusolati, piedi che sono larghi nella parte anteriore. Che cosa le raccontano? Beh, la forma dei piedi racconta proprio come la persona è radicata a terra. Sì. Come riesce a avere contatto appunto con l'energia della terra e con se stesso, cioè riuscire a mettersi in contatto con la propria parte più emotiva, più istintiva. Quindi se sono molto sottili, ci sono dei piedi, mi viene in mente tante volte visitando dei pazienti, come non vissuti, come se fossero quasi piedi morti, sì. Molto sottili, pallidi, ecco. Poi ci sono i piedi invece molto larghi davanti, che possono essere dovuti al fatto che o c'è un calcagno tirato verso l'alto dai polpacci e quindi viene scaricato il peso anteriormente, come succede ad esempio con i tacchi. Ecco, in ogni caso sono segno di un radicamento un po' troppo anteriore, come se la persona fosse troppo proiettata verso l'avanti. In questo periodo, tra l'altro, vedo tante persone che hanno male i piedi, come se fosse un momento in cui tutti abbiamo bisogno di muoverci, di camminare, di fare dei passi in avanti, e invece siamo frenati. Perché, come insegna anche la medicina cinese, c'è anche un simbolismo del piede. Certo. Ma dottoressa Bertelè, i piedi, dicevamo, si trasformano, e ci sono anche delle attività sportive che aiutano i piedi, se vogliamo, a crescere bene, a mantenersi in forma. Ma ogni attività sportiva portata all'esasperazione deforma il corpo e anche i piedi. Invece un'attività rilassata, soprattutto la camminata, che è la più fisiologica in assoluto, o anche delle corsette molto morbide, fai sì che il piede lavori bene. Eh sì, perché il piede insomma è fatto per sostenerci, per muoverci. Sì. Allora, dottoressa Bertelè, è tempo di maratone e i maratonetti stanno scaldandosi, muscoli e piedi. Tra questi c'è anche il nostro amico Giuseppe Cruciani. Ciao Giuseppe. Ciao Nicoletta. Allora, prossimo appuntamento, tu e i tuoi piedini andate a? Firenze, domenica 27, insieme alla radio. Insieme alla radio, tutti insieme si corre, ti stai allenando? Sì, ho avuto un piccolo problema, però mi alleno per divertirmi naturalmente, non è che si va là per altri motivi. No, assolutamente. Per migliorarsi sempre un po', però sempre con l'obiettivo di correre una maratona in una città meravigliosa come Firenze, organizzata molto bene, con una delle maratone più belle d'Italia. Senti, perché? Perché cosa? Perché una delle più belle d'Italia? Perché si corre in una delle città più belle, soprattutto ci sono tante maratone in Italia, a Roma, a Venezia, a Torino domenica scorsa, cioè ieri, però Firenze è una maratona che si svolge tutta al centro della città e che ha un fascino particolare, peraltro ha la più grande affluenza di stranieri rispetto ad altre maratone italiane, dunque non a caso. Senti Giuseppe, tu hai mai provato un trattamento di riflessologia plantare prima o dopo le maratone? Sarebbe meglio prima? Sì. Assolutamente sì, raccontami. Bene, bravo. Bello. Allora, perché cosa come No, perché l'ho provato per così, per non perché avessi necessità o bisogno, no. Per fortuna non ho mai avuto problemi con i piedi. No. Anche se i piedi, sentivo prima la dottoressa Bertelè, inevitabilmente con la maratona, che non è proprio la camminata che lei consigliava o che comunque di cui parlava, i piedi con la maratona si trasformano forse in negativo. Da un punto di vista estetico sicuramente i piedi diventano qualcosa di terrificante, se vogliamo, no? Esteticamente, cioè le unghie, la conformazione dei piedi, insomma ti si formano dei calli, ti si formano delle stranezze. Senta, ma la riflessologia il piede del maratoneta è terrificante. Dottoressa Bertelè, ma dato che lo vogliamo integro anche coi piedi belli, Giuseppe, i maratoneti che corrono come lui, c'è qualcosa per evitare che la corsa ti deformi un po' i piedi? Perché dalle descrizioni di Giuseppe mi viene voglia adesso, oggi, quando vieni in redazione, di chiedere di farmi vedere i suoi piedi, ma non vorrei essere così intima, Giuseppe. Meglio di no, perché io le fotografo e poi dottoressa Bertelè può occuparsi un attimo dei piedi del mio amico Cruciani? Guardi, le racconto un episodio che è successo recentemente a un ragazzino che seguo, che è un nazionale di atletica, ecco, e che appunto facendo un potenziamento muscolare eccessivo della muscolatura posteriore dei dorsali ha spostato l'appoggio troppo anteriormente, sì, e quindi ha avuto una frattura di un metatarso contenuta, sono quelle, sì, che si chiamano fratture da stress. Ecco, il discorso è che se si riuscisse a fare un riequilibrio della muscolatura della schiena e delle gambe facendo lavoro fatto molto individualizzato, si potrebbe evitare almeno in parte la deformazione dei piedi. Vedi. Le ricordo, io ho avuto un allievo dello Zaire, un ragazzo nero, un fisioterapista, che correva ogni 15 giorni andava a trovare sua mamma a piedi di corsa attraverso le foreste per 150 chilometri, a piedi nudi. Aveva dei piedi stupendi, solo con una suola di callo sotto i piedi, sì, che sarà stata di un centimetro, certo, ma il piede era bellissimo come forma. Senta, sa cosa faccio? Giuseppe, darò il suo libro, perché ci sono di Buongiorno al tuo corpo, Giuseppe, ci sono una serie di esercizi che secondo me vanno bene anche per i maratoneti. No, ma io dal punto di vista strutturale sicuramente si creano dei problemi, soprattutto con gli atleti professionisti che la dottoressa Bertelè conosce bene, solo che un maratoneta con i piedi belli, come dice lei, o comunque una persona che corre ancora la devo conoscere, quindi il concetto di bellezza, però i piedi inevitabilmente, soprattutto nelle unghie, soprattutto cioè comunque ha delle deformazioni che non sono proprio quelle di un piede bello. Poi dottoressa, i gusti sono gusti. Vabbè, pazienza, dai. Gli daremo un po' di energia facendo una bella riflessologia. Una riflessologia. Già fatto, gli facciamo una va bene, energia, se arriva Firenze vola. Ecco, così a Firenze vola. Grazie a Giuseppe Cruciani per essere stato con noi. Facciamo il grazie tifo per te. Ciao, ciao Giuseppe, a dopo. E intanto Io ho tantissime telefonate, Laura Vanossi vedo che è lì in redazione con le mani nei capelli, perché poi io fra due minuti devo chiudere e quindi voi mi dite allora vai, e infatti vado da Massimo che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Massimo, rapidissimo. Buongiorno. Buongiorno. Di corsa. Allora, di corsa per l'appunto, come ho un problema da circa 4 mesi al tallone destro, che si presenta al mattino in un modo molto violento, che però camminandoci sopra dopo un'oretta questo sparisce. Se io mi fermo per un'altra ora questo torna, allora io ci devo camminare sopra e lui sparisce. Cammino, quindi lei deve camminare continuamente, Massimo. Deve fare come vada a trovare sua mamma attraverso anche la foresta, 150 chilometri, mi ha stupito molto. Dottoressa Bertelè, che cosa può avere Massimo? È facilissimo che sia un'entesopatia, cioè un'infiammazione dell'inserzione del tendine d'Achille, sì, che non è da sottovalutare, ecco. Quindi io entro nel solito discorso dell'accorciamento della muscolatura dei polpacci. Sì. Ed è da... Se trascinata e trascurata diventa poi una spina calcaneare, una calcificazione del tendine che può essere pericoloso, nel senso che può staccarsi anche. Ok, allora io prima dei saluti e dei ringraziamenti, Roberta da Roma, 800240024. Roberta, mi segnala Laura Vanossi che vuole rispondere alla domanda sul feticismo dei piedi, come si chiama? Esatto. Come esatto, si chiama? Esatto. Allora, si chiama reticismo. Sì. Giusto? E deriva da uno scrittore francese che è retista della Bretonne, che era un grande amante dei piedi della moglie. È autore di Le Pied de Fanchette, dove sono narrate le vicende di una donna che riesce ad affermarsi socialmente, servendosi proprio del fascino dei suoi piedi. Alla nostra amica il libro della dottoressa Bertelè, Ascolta e guarisci il tuo corpo, un ringraziamento a lei, un ringraziamento a Marco che vuole ringraziare anche ringraziare anche la mia maestra che se oggi sono quello che sono è grazie a Stella Maria Cantamessa, che ha oltretutto aperto un'associazione che si chiama Xen, che è legata anche al CONI, quindi probabilmente avremo anche un riconoscimento non di più più prestigioso noi riflessologi, e quindi la ringrazio molto e ringrazio il CIRF, che è la mia scuola dove io ho appreso tutto quello che bene, oggi posso bene. Donare agli altri. È giusto, è importante anche ricordarsi di chi ci ha portato, no? Ci ha fatto camminare per l'appunto in avanti. Vi saluto dottoressa Bertelè, grazie molte. A tutti. Grazie, ciao, Laura, buona giornata, grazie a domani, perfetta, a domani, sono in tempo, mi stupisco. Essere e benessere.